Summertime di Elisabetta Fiorito. Questa sera avevo anche intenzione di raccontare con i brani di interviste a Paolo Borsellino un racconto di una parte d'Italia che è attualissimo in realtà. Raccontare il pool non è semplicemente raccontare il pool di Palermo di quegli anni, non è semplicemente raccontare di persone che sono morte facendo il loro mestiere, giusti, eroi, combattenti. Bisogna raccontare la loro vita, non la loro morte, molto facile farlo. E quello che sentite ovviamente è Roberto Saviano, buon pomeriggio, benvenuti a questa nuova puntata di Summertime che si apre con una clip appunto dello scrittore a Viterbo, ha aperto Caffeina, una kermesse giunta quest'anno alla sua quarta edizione che propone gli incontri con i maggiori scrittori italiani. E questa sera è la volta di una delle grandi scrittrici italiane, Dacia Maraini, buongiorno, buon pomeriggio. E che presenterà La ragazza di via Macheda questa sera alle 21.30, ricordiamo, a Viterbo, al cortile San Carluccio. Ecco, di che cosa parla questo libro? Parla di donne? Non solo, parla anche di uomini. Sono storie, sono racconti che riguardano tre zone dell'Italia che sono state anche luoghi della mia memoria, della mia vita, che sono in una parte la Sicilia, poi una parte Roma. E una parte riguarda l'Abruzzo, dove da ultimo mi ritiro per scrivere parecchi mesi all'anno. Ecco, l'Abruzzo, che sappiamo è stato colpito dal terremoto, in questo momento sta vivendo un momento abbastanza drammatico ancora. Ma lei che si ritira in queste montagne un po', diciamo, brusche, isolate, come sono le persone dell'Abruzzo che vengono fuori anche dal suo libro? Ma naturalmente, come tutto il mondo, ci sono persone meravigliose e persone meno meravigliose, però in generale direi che l'Abruzzo ha una grande tradizione di accoglienza, di generosità, anche di chiusura, di così, soprattutto la zona che frequento io, che è la montagna, c'è quella chiusura, quel sospetto verso chi viene da fuori, che è tipico dei montanari, però una volta che poi ti hanno accettato sono molto generosi, molto disponibili e poi di una lealtà assoluta. La ragazza di via Macheda, abbiamo detto, non sono solo storie di donne, ma soprattutto storie di donne. Tra le altre cose ci sono storie ambientate in Sicilia, una Sicilia mai dimenticata per Dacia Maraini. Sì, ci sono alcuni racconti che riguardano proprio la mia memoria, com'era la Sicilia prima della rapina territoriale, prima che fossero rovinate molte delle coste più belle, e altre invece che riguardano proprio la storia di oggi. C'è per esempio il racconto di una piccolissima, giovanissima prostituta schiava portata su dall'Africa, venduta e comprata, che sta lì appunto, è la ragazza di via Macheda, è lei. Che dà il titolo al libro. È anche la storia appunto di un ingegnere che da prima vorrebbe proteggerla, poi siccome viene coinvolto in una storia di corruzione, ecco, piano piano perde la stima di se stessa e così. Ecco, ho cercato di raccontare come la corruzione può prendere e avvolgere anche una persona onesta e fargli perdere la stima di sé. Quando si perde la stima di sé si è capace di fare qualsiasi cosa. Uno dei racconti parla anche della violenza sulle donne? Sì, diversi racconti parlano della violenza sulle donne perché purtroppo è un fatto in crescita. Io sono veramente indignata perché in questi giorni ogni giorno apriamo il giornale e ci sono ogni giorno anche uno, due, tre casi di donne che vengono uccise. Anche stamattina stavo leggendo il giornale, c'è il caso di una ragazza che vive nel terrore perché il suo ex la minaccia continuamente di morte, e due ragazze morte, uccise dai loro compagni perché loro volevano andare via, era finito il rapporto. Insomma, sono storie agghiaccianti e non si capisce perché, migliorando la condizione dei rapporti sessuali, migliorando la condizione delle donne ci sia questa mattanza, perché veramente dobbiamo parlare di una mattanza. Per lei c'è una crescita di questo aumento della violenza sulle donne perché ci sono pubblicità o c'è un modo di vedere la donna che invece di andare avanti è tornato indietro? Beh, certo, l'immagine pubblica che si dà delle donne è orribile, veramente, e punta sull'umiliazione del corpo femminile, non l'esaltazione come si vorrebbe far credere, ma l'umiliazione. Le donne vengono continuamente umiliate e naturalmente l'umiliazione porta con sé degli altri sentimenti che sono per esempio il disprezzo, che sono la voglia di ferire, di infierire, e questo non aiuta. Continuamente si vede nella televisione, che purtroppo è una compagnia costante della nostra vita perché entra in tutte le case a tutte le ore del giorno e della notte, continuamente casi di donne che vengono umiliate anche spogliandole in maniera inutile, perché il nudo è una cosa bellissima, ma quando questo nudo viene fatto apposta per infierire contro questi corpi che vengono trattati come degli oggetti, come della carne da macello, insomma, Zanardo, non so se lei, ha fatto un bellissimo documentario sul materiale preso dalla televisione ed è veramente avvilente. Lei per esempio parla delle scale, dice che su moltissimi programmi si usano queste scale per poi riprendere le donne dal di sotto. Cioè un continuo. Insomma, le scale per far vedere poi il sedere, sì, le gambe, sì, queste cose, sì, allucinanti. Sì. Senta, Dacia Maraini, che cosa succederà questa sera? Ricordiamo alla Caffeina Festival al Cortile San Carluccio. Lei leggerà dei brani del suo libro o parlerà con le persone che vengono a sentirla? Si parlerà, se Dio vuole, ecco, invece di esibire i corpi nudi, si parla di libri, cioè le idee. Io penso che le donne hanno una testa pensante, troppo spesso si dimentica, si concentra tutta l'attenzione sul corpo, mentre invece le donne hanno, tutte, belle, brutte, giovani e vecchie, hanno una testa pensante, che è la cosa più preziosa e più bella che ci sia. E ragionare con le donne è una cosa molto importante, perché si dà fiducia e non si dice ai giovani donne, non si fa passare questo messaggio alle ragazze che l'unica cosa che conta è il loro corpo, ma si fa passare l'idea che anche il pensiero, i sentimenti, le parole, il giudizio delle donne conta. E poi basta con questa idea, no? Che le donne a un certo punto, passato una certa età, basta, sono da buttare, perché questo poi c'è dietro questo concetto delle donne, del corpo femminile. Beh, mercificato. Certo. Gli uomini possono invecchiare, le donne no. E certo, perché se la donna è un corpo in vendita deve essere nuovo, deve essere fresco, come un'automobile, nessuno vuole un'automobile vecchia, vogliono un'automobile nuova, però appunto è un'automobile, mentre una persona invecchiando perde qualcosa ma acquista qualcos'altro, perché può acquistare in esperienza, in saggezza, in intelligenza, in qualità, in tante cose che impara per la vita. E una volta in effetti gli anziani erano i depositari della saggezza di una collettività, invece partendo dall'idea che appunto un corpo femminile è soltanto un corpo in vendita, naturalmente è un momento che è usato, è come un oggetto che è usato, non conta più niente, no? E quindi bisogna passare all'altro. Questa è la peggiore delle offese, la cosa più umiliante, più orribile che si possa fare nei riguardi delle donne. Ringraziamo allora Dacia Maraini, protagonista della serata di oggi al Caffeina Festival a Viterbo, che si tiene fino al 17 luglio. Ricordiamo, per chi vuole andare a sentire questa famosissima scrittrice, al Cortile San Carluccio l'appuntamento alle 21.30. La ragazza di via Macheda, il suo libro in vendita in questi giorni sugli scaffali delle librerie, edizioni Rizzoli. Grazie. Grazie a voi, arrivederci. Vi invitiamo a una sorta di regressione. Quindi voi che eravate bambini, perché tutto questo? Perché ai bambini piace. Adesso non vi sto inoltrando nei meccanismi, diciamo, ai bambini piace l'idea che voi siete stati piccoli. Adesso sembra assurda questa cosa, però è così. Perché non voi, chi va visto? Cioè, è sulla garanzia che voi siete stati piccoli per loro. Non so se, ecco, è sulla fiducia. Però io sono stato piccolo. E ragazzi, vabbè. Cioè, c'è così, i capelli bianchi, cioè questo ci dice un sacco di... No? E quello che avete sentito è un brano di Sotto il cielo azzurro, il film di Edoardo Whisper, che è in rassegna al Clorofilm Film Festival, un festival che si svolge in Maremma su 3 località. Simonetta Grechi, organizzatrice, come si svolge, che cosa succede in Maremma durante questo weekend, visto che il festival parte proprio oggi? Sì, partiamo oggi e proseguiamo fino ad agosto su 3 location diverse, dove proporremo, a seconda appunto del luogo, film diversi. Per esempio, all'interno di Festambiente proietteremo solamente documentari. Questa è l'ultima parte però del festival, che si svolgerà ad agosto. Da oggi invece fino al 5 di agosto saremo impegnati ogni mercoledì e ogni giovedì al Parco di Pietra di Roselle, un giardino d'arte realizzato da un privato, da una ex cava di Ghiaia. Di Roselle, in provincia, io lo devo dire, sempre di Grosseto, mi scusi, sì. Ma tutta Italia ci sente, e siete impegnati con delle proiezioni, una presentazione, sì, di un libro e delle proiezioni. Questa sera iniziate con 10 inverni, il film di Valerio Mieli ambientato a Venezia, una storia, sì, d'amore lunga 10 anni, molto bello, no? Che ha vinto anche il Davide Donatello e il Nastro d'Argento. Sì, da quando ha partecipato lo scorso anno alla Mostra del Cinema di Venezia sta raccogliendo successi di continuo. Ultimo in ordine temporale il premio a Isabella Aragonese come miglior attrice al Festival Mare Metraggio di Trieste, che si è svolto la scorsa settimana. Gli appuntamenti, sì, a che ora sono e dove sono? Allora, gli appuntamenti sono ogni mercoledì al Parco di Pietra alle 22:30 e il giovedì all'Arena Cavallerizza di Grosseto alle 21:45. Allora, ricordiamo, Clorofil Film Festival fino al 15 agosto addirittura, sì, e parte oggi 7 luglio, mercoledì e giovedì. L'appuntamento è tutti quanti in Maremma, vicino a Grosseto, per gustare quello che sta succedendo nel nostro panorama cinematografico italiano. Grazie a Simonetta Grechi. Grazie a voi. Arrivederci. Summer Time. Forse non mi hai ascoltato, Enè. Forse pensi che noi dobbiamo ascoltare te. Certo, la fama ha portato fino a noi la sorte della tua patria, ma nessuno ci aveva detto che molti della tua gente erano scampati alla morte. Ciò che il cantore vuole esprimere è solo una preghiera. Che tu racconti è l'uso degli ospiti raccontare la propria storia, nel bene e nel male. Penso che i tuoi compagni attendono le tue parole come noi. Contiquere omnes, intentique ora tenebant. Tu mi chiedi, regina, che io rinnovi un dolore inesprimibile. Inde toro pater Aeneas sic orsus abalto. Sceneggiato Rai del 1971, beh, sono passati quasi 40 anni da questo sceneggiato, che metteva ovviamente in luce un personaggio come Enea di Virgilio. E Enea, l'Eneide ai fori imperiali, è la protagonista anche di quest'estate. Parte domani per tutti i weekend fino all'11 agosto Passaggi Segreti, la manifestazione di spettacoli teatrali itineranti all'interno dei luoghi e dei siti storici di Roma. E quest'anno c'è proprio la rielaborazione dell'Eneide, un adattamento firmato da Roberto Marafante. Buongiorno, buon pomeriggio. Buongiorno. Roberto, ma questa Enea... Fa tenerezza sentire questa Eneide, ero piccolo, ero. Anch'io ero piccolo. Ma questa Enea invece moderno, messo in scena da lei, è un Enea un po' esule, un Enea che vive un mondo contemporaneo? Sì, sì, è un'Enea, è una visione non tanto nuova dell'Eneide. Io credo, insomma, il fatto è stato questo: quando io ho letto l'Eneide, questa è la seconda versione, nel senso che è una messa a punto di un primo tentativo fatto nel 2000 addirittura. Ma quando l'ho letta, dato che noi abbiamo questo ricordo un po' scolastico che è sempre un po'... Quindi coraggioso anche sì, aver letto l'Eneide. L'Eneide, appunto, perché è terribile, insomma, l'Eneide fa parte di quei poemi che non è l'Odissea o l'Iliade, proprio fa parte di quei poemi odiati da tutte le studenti di tutti i tanti. Di latino, sì, appunto. E invece poi rileggendo scopri che veramente è una grandissima opera. Ma è come dire, io dico sempre una cosa, che c'è un classico per ogni epoca, nel senso che un classico ritorna in certi momenti perché assume un significato particolare, e in questo momento l'Eneide a mio avviso assume un significato particolare perché Enea appunto non è più soltanto un eroe, anzi non l'è mai stato neanche per Virgilio, ma è profondamente appunto un emigrato, cioè una persona che in qualche modo approda in una terra diversa, venendo da una guerra che in qualche modo quella di Troia, che ha distrutto tutta la sua civiltà e società, e approda in quella per cercare di creare una nuova realtà. Questo dimostra in qualche modo che Virgilio, per quanto volesse in qualche modo esaltare la figura di Ottaviano, dire che era figlio di Enea, quindi figlio di Venere e tutte queste belle cose, in realtà poi ci dice che i Romani non è che fossero appunto una civiltà pura, come si suol dire, insomma, ma anzi una civiltà creata proprio dal fondersi di culture, di razze, di personaggi diversi, ed Enea è un esempio, insomma. Quindi questo fa sì che oggi come oggi, per noi italiani che abbiamo sempre conosciuto l'emigrazione, non l'immigrazione, diventa assolutamente una novità incredibile vedere appunto rileggere Enea in questa ottica, ma lo è realmente perché lui è continuamente chiamato dagli altri appunto clandestino, straniero, cioè voglio dire tutti i personaggi da Didone ai latini, insomma per Enea è questo, è uno straniero, non c'è niente da fare, insomma. E noi oggi ci facciamo i conti. Allora, ricordiamo, dall'8 luglio all'11 agosto, ogni weekend, giusto? Sì, cioè dal giovedì alla domenica. Dal giovedì alla domenica. E a che ora? Alle 21.30 al Foro di Augusto. In Piazza del Grillo. No, l'importante che mi interessa sottolineare una cosa è che parte un gruppo di attori fantastici, ma a questo si associa anche un gruppo di danzatori brecker. Cioè voglio dire che fanno break dance. Che fanno e che rappresentano la guerra, cioè perché in realtà appunto è una dimensione di violenza e coso in qualche modo urbana, che in qualche modo è contenuta anche nell'Eneide, ecco, voglio dire, quindi viene fuori questa battaglia che è fatta di questa danza appunto che sembra quasi primitiva, tribale, ma in realtà è delle strade. Tribale. Allora ringraziamo Roberto Malafrante, vi ricordo l'appuntamento dal giovedì fino alla domenica ogni giorno, quindi del weekend, Foro di Augusto alle 21.30, l'Eneide di Virgilio. Grazie. Grazie a lei. Io ringrazio Valerio Rocchetti in regia, Gloria Guerrera in redazione, vi ricordo che ci potete scrivere a summertime@radio24.it, che potete riascoltare la nostra puntata sul sito di Radio 24, www.radio24.it, e anche dare una sbirciata agli avvenimenti di questa sera. Una buona serata a tutti da Elisabetta Fiorito.